Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Manteniamo gli accordi intervenuti sulla legge elettorale e sulle riforme. La legge elettorale è già incardinata alla Camera dei Deputati, titolo quinto e Senato sono avviati con degli scambi di posizioni che inducono all'ottimismo. Onorevole Renato Brunetta, ieri, buongiorno intanto, ieri al Parlamento sembrava un Vietnam, tutti contro tutti, poi Berlusconi sente, dice tutto bene, si sono incontrati Verdini e Renzi, tutto è finito. Cosa hanno concordato? Noi manteniamo gli impegni, sì. È Renzi che non li mantiene. Le faccio alcuni esempi. Ha presente la riforma elettorale? Sì. Benissimo, è stata approvata con modifiche rispetto agli accordi originali alla Camera il 12 di marzo. Da 3 settimane è bloccata, insabbiata al Senato, non è stata neanche assegnata alla Commissione Affari Costituzionali. Va bene. E se tutto andrà come dichiarato dalla Boschi, rimarrà insabbiata ancora alcuni mesi. Però Berlusconi dice tutto bene. Gli accordi allora, vanno ha presente, avanti. Ha presente la riforma del Senato approvata dal Consiglio dei Ministri lunedì scorso, sì, e presentata in conferenza stampa? Sì. Bene, un testo non esiste ancora e quella riforma non è stata ancora trasmessa al Senato. Berlusconi però è dice tutto oggetto, bene, onorevole Brunetta. È stata oggetto di critiche feroci da destra e da sinistra. Sì. Si presenta come un colabrodo scritto con i piedi, il risultato è che quella riforma non esiste. E quindi, ha presente il no, Jobs ma però Act, mi ascolti, onorevole Brunetta. Mi scusi, ha presente sì, il Jobs Act? Dopo sì, le rispondo. Sì. Ha presente il Jobs Act? Sì. Non esiste, nel senso che non esiste alcun disegno di legge che abbia questo nome e questi contenuti. Doveva esserci una delega. Abbiamo campa cavallo, mi scusi, poi le rispondo. Ma non abbiamo non esiste, un'ora. Poi le rispondo, abbia pazienza. E doveva esserci una delega, non c'è neanche la delega. L'unica cosa che finora c'è stata è il decreto Poletti sui contratti flessibili e sta per essere stravolto a causa della CGIL e della minoranza maggioranza interna. Onorevole Brunetta, ok, ho capito gli esempi, però Berlusconi ha detto si va avanti tutto bene, è una contraddizione insomma tra lei e Brunetta. La frase che lei ha indicato è di sua. Berlusconi è datata penso a 20 giorni fa, perché la legge elettorale alla Camera è stata approvata con modifiche e attualmente è strabloccata. Allora, onorevole Brunetta, mi risponde c'è un problema, domanda. C'è sì, un grande ho capito. Problema. Allora, voi non vi fidate di Renzi, questo è il tema. No, Renzi non sta mantenendo gli impegni. E quindi non vi fidate più? No, nel senso che quando un contraente, un no, partner... Ma lei si fida un contratto, o no? Mi scusi, quando un contraente, mi scusi... lei mi fa una domanda, mi lasci... però mi deve rispondere alla domanda. Ma io le rispondo come credo, ovviamente. Beh. Se lei mi fa la domanda, mi lascia parlare. Certo. Se no, andiamo avanti così. Vabbè. Quando un contraente non mantiene gli impegni, è certo che non ci fidiamo più. Vabbè. È un imbroglio. No. Come l'imbroglio delle province di ieri. Ha presente le province di ieri? Sì. Benissimo. Allora, non si cancellano le province rimangono, i costi rimangono, si aumenta di 20.000 il numero dei consiglieri comunali e degli assessori, a fronte di un'eliminazione di 3.000 consiglieri provinciali, presidenti di provincia, eccetera. È un vero imbroglio. 800... Questa è la cifra... Questa è la cifra. Onorevole Brunetta, almeno mi lasci dare almeno il numero 800 24 00 24, numero verde, l'SMS 349 238 6666. Senta, ma del vero Renzi ha messo la sua testa sull'abolizione del Senato elettivo. Allora, secondo lei, la perde sta testa? Ma vede, Renzi ha messo la sua testa sì, su tante cose. Vabbè. Sugli 80 euro, no, sul Senato, ha messo la sua testa. Quante teste non ha? Non abbiamo, non lo so, questo lo vede lei alla Camera. Senta, quante teste ha? Senta, è un rullo compressore, è un no, asfaltatore. Onorevole Brunetta, però non ho un'ora. Minoli, lei è Minoli, ma io sono Brunetta. destra. Lo so, bene. Benissimo. Lo so per bene. Cui, da questo punto di vista, siamo anche stufi di questa retorica. Ieri era rullo compressore, ma non se ne può più. Senta, mi dica una cosa, del vero contenuto dell'incontro tra Berlusconi e Napolitano se ne sa pochissimo, sembra solo che Berlusconi non fosse soddisfatto. In una parola, lei ne sa qualcosa? No. Niente? Senta, ma cosa capiterà a Berlusconi dopo il 10 aprile? Lei ha una sua previsione? Conoscendo Berlusconi, Berlusconi dà il meglio di sé quando è in difficoltà. E quindi, tremate. Soprattutto i nemici della democrazia, giustizialisti e furbacchioni e furbastri, tremate. Si incontreranno, secondo lei, Renzi e Berlusconi prima ma del 10? Sì o no? Che Berlusconi incontri un giovane sbruffone non è una cosa di grande rilievo. Una domanda di Mario Secchi. Buongiorno Brunetta, sull'economico, secca, ho visto l'indice dei prezzi delle case è ulteriormente in diminuzione, della disoccupazione sappiamo, ma la ripresa dov'è e ci sarà? Allora, non c'è la ripresa, ci sarà forse tra un anno e mezzo, nel frattempo aumenterà la disoccupazione, andrà a finire dal 13 al 14%, il debito continuerà ad aumentare, adesso siamo al 132% rispetto al PIL, lo spread continuerà a diminuire, il che dimostra che lo spread non è affatto legato ai fondamentali dell'economia e che era anche quello un grande inganno. Pietrangelo, una domanda veloce. Perché sì, la domanda è questa, ho sentito la sua opinione riguardo a Renzi, ma le chiedo, Berlusconi condivide il suo giudizio su Renzi a questo punto? Ma lei sta intervistando me? Sì. Benissimo. Sì o no? Intervisti me, per favore. Va bene, grazie. Allora guardi, posso solo dire una cosa, sta succedendo esattamente quello che è successo con Monti, che Berlusconi con grande generosità appoggiò il governo Monti. Il governo Monti distrusse l'Italia, quando Berlusconi se ne accorse fece cadere il governo Monti, con grandi risultati positivi per l'Italia e anche per il nostro partito. Sta succedendo esattamente la stessa cosa, è la stessa sindrome. Grazie. Monti era un governo non eletto dai cittadini, Renzi è un governo non eletto dai cittadini. Onorevole Brunetta, io ho anche delle esigenze di tempo, le chiedo scusa e la ringrazio molto della sua disponibilità. Dunque, la libertà di spostarsi, l'abbiamo detto, dopo il 10 aprile è un tema forte perché è quello che permette a Berlusconi di fare politica. Ed è quello di cui si parla. Daniele Romeo, che è un avvocato penalista, ci spiega tecnicamente cosa vuol dire l'eventuale carcerazione domiciliare se non fossero assegnati i lavori socialmente utili. Buongiorno dottor Minoli. Allora, la carcerazione domiciliare, noi abbiamo nel nostro ordinamento la possibilità di scontare non in carcere una parte di pena. Sì. Questo può avvenire attraverso delle misure alternative. Diciamo che le misure alternative, quelle che garantiscono maggiore libertà, sono sostanzialmente due. In primo luogo c'è l'affidamento in prova ai servizi sociali, che è diciamo la misura più ampia. In subordine solitamente si chiede si chiama detenzione domiciliare, sì, perché consente di espiare la pena sostanzialmente restando in casa. Naturalmente. Parlando di Berlusconi, se va ai servizi sociali sostanzialmente può fare la sua vita normale, diciamo, per farci capire. Se invece avesse la carcerazione domiciliare, quali sono le caratteristiche? La detenzione domiciliare è una vera e propria carcerazione, nel senso che c'è una restrizione della libertà personale, però naturalmente il giudice può consentire di svolgere la propria attività lavorativa, per esempio. Se uno fa il panettiere e ha necessità di fare il panettiere per vivere, il giudice ne può prendere atto e può addirittura dare il permesso per stare anche fuori di casa anche 8 ore al giorno. E se uno fa politica per vivere? Ma la politica, a mio modesto avviso, rientra assolutamente in quelle che sono... Ecco, quindi, avvocato Romeo, quindi, dal punto di vista tecnico, anche i domiciliari, se il giudice lo consente, permettono un'attività. Assolutamente sì. Berlusconi è stato sconfitto dalla Cassazione. La legge elettorale l'ha cambiata la Corte Costituzionale. Il metodo stamina lo verificano i giudici del lavoro. Le acciaierie che inquinano le chiudono le procure e il presidente del Piemonte lo decide il TAR. Sbaglio? O a naso l'analisi è che questo paese sia governato da giudici? Cioè, scusami, spendiamo circa 25 miliardi all'anno per pagare la politica e decidono tutti i giudici? È una follia, non è una democrazia, è una demopazia. Che cos'è l'Italia se non un paese in attesa di giudizio? Diciamo così, diciamo che la politica ormai è quel simpatico passatempo fra una sentenza e l'altra. Qualunque cosa faccia la politica in Italia, c'è di mezzo un'indagine della magistratura. Era Crozza del 14 gennaio, ironizzava naturalmente su una condizione dell'Italia, che però qualche cosa di vero ce l'ha. In questi anni è certo che la magistratura, anche suo malgrado, ha supplito alla mancanza di determinazione e di strategia della politica, e fra tutte le procure d'Italia protagoniste delle indagini di questi anni, una delle più importanti è stata certamente la procura di Milano. Ecco, una procura che ha avuto i suoi pubblici ministeri sempre alla ribalta, sempre di più al centro del sistema dei media. Sono gli stessi magistrati però che oggi, riflettendo sul loro ruolo, sono arrivati anche a delle valutazioni sorprendenti. Ci sono dei magistrati, dei pubblici ministeri che forse hanno utilizzato il proprio lavoro per altro. È inutile negarlo. Questo c'è stato e io mi auguro che non ci sarà più. Una seria autocritica anche all'interno della magistratura, che doveva fare e non l'ha fatto dopo la morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Era Ilda Boccassini che invitava a una riflessione molto, molto seria. Oggi la Procura di Milano è al centro di una discussione al suo interno che coinvolge il procuratore capo Edmondo Bruti Liberati e il procuratore aggiunto Alfredo Robledo. Discussione che riguardano le assegnazioni di dossier di inchieste e i relativi metodi. Ecco, Mario, che cosa significa secondo te? Formale o sostanziale questo scontro? No, è sostanziale, è un caso enorme. Ed è anche la prima volta che viene fuori in maniera così palese la trafila che fanno i fascicoli giudiziari, no? Un procuratore può tenerli nel cassetto, dimenticarli? No, ovviamente, però diciamo, no, li tiene là e poi si insomma vedrà. I criteri di assegnazione sono in discussione. Sì, sono molto in discussione e il metodo anche seguito a questo punto. Pietrangelo? Sì, è sostanziale, segue il passo dei tempi. Proviamo a immaginare cos'era l'Italia, mettiamo, degli anni 20, degli anni 10. Era un'Italia nel cui orizzonte riconoscevamo le figure, per esempio, dei militari, riconoscevamo le figure degli insegnanti, di un certo notabilato. Ora non c'è dubbio che il notabilato decisore delle giornate italiane è diventata la magistratura. E quindi tutto ciò che accade all'interno di questo corpo è sostanziale. Basti pensare che l'ultimo colpo di scena, quello dei Serenissimi, si trascina dietro un non detto, un'impossibilità di farne dibattito, proprio perché c'è anche un atteggiamento intimidatorio su cui pochissimi riescono a prendere parola. Ecco, comunque, rispetto alla magistratura, naturalmente, al suo ruolo, alle sue azioni, una novità molto importante, secondo me, è l'affermazione fatta dal Presidente del Consiglio in persona, il Presidente Renzi, qualche giorno fa nel suo faccia a faccia a Sky con il direttore di Sky, Sara Varetto. In Italia per 20 anni è bastata l'apertura di un'indagine per scatenare sul soggetto che riceve l'avviso di garanzia una tempesta mediatica che io trovo incivile. È il motivo per cui ho detto, anche rischiando l'impopolarità, per cui non è vero che noi facciamo soltanto le cose popolari, che l'avviso di garanzia non può costituire un elemento di condanna anticipata. Non è contro la Costituzione, è contro il buonsenso. Se io, magistrato, sto indagando su di te, è corretto che tu abbia il tempo, è civiltà che tu abbia il tempo di dimostrare che magari non è vero niente o l'accusa non è provata. Questo per come punto fondamentale. Non scambiamo le indagini come accertamenti di colpevolezza. Dunque, l'avviso di garanzia non è più una dichiarazione di colpevolezza, lo sapevamo ovviamente già sul piano giuridico, ma sul piano sostanziale, politico e mediatico, non è mai stato così, no. Obiettivamente. In anni passati siamo arrivati a situazioni drammatiche che riguardavano proprio gli avvisi di garanzia. Sergio Moroni, per esempio, per 2 avvisi di garanzia, l'onorevole deputato socialista, si è suicidato sparandosi una fucilata in bocca e lasciando questa lettera. Egregio signor Presidente, un grande velo di ipocrisia, condivisa da tutti, ha coperto per lunghi anni i modi di vita dei partiti e i loro sistemi di finanziamento. C'è una cultura tutta italiana nel definire regole e leggi che si sa che non potranno essere rispettate. Mi rendo conto che spesso non è facile la distinzione tra quanti hanno accettato di adeguarsi a procedure legalmente scorrette in una logica di partito e quanti invece ne hanno fatto strumento di interessi personali. Rimane comunque la necessità di distinguere, ancora prima sul piano morale che su quello legale. Non credo che questo nostro paese costruirà il futuro che si merita coltivando un clima da pogrom nei confronti della classe politica. Ma quando la parola è flessibile, non resta che il gesto. Ecco, se le parole tremende, se le parole sono flessibili, contano i fatti per un avviso di garanzia. Ecco, per un leader del PD, un'affermazione ovvia giuridicamente come quella che ha fatto Renzi, però ha un significato del ritorno o di un tentativo di ritorno del primato della politica? Ma guarda Giovanni, la dichiarazione di Renzi è la cosa più importante che ha detto da quando è presidente del Consiglio, a mio modestissimo avviso. È una svolta molto, molto grossa. E naturalmente però Renzi dovrà aspettarsi le cosiddette reazioni uguali e contrarie. Per ora sono tutte sotto traccia, ma vedrai che verranno fuori. Cioè il tema della giustizia è intouchable, è quasi intoccabile. Però in insomma questo innesca un processo. Sì. Tra l'altro, scusa, Moroni, che tu hai mandato, fu uno dei miei primi servizi da inviato. Io fui molto scosso da quella storia, e che resta un emblema di una giustizia sommaria, dai, parliamoci chiaro. Non è uguale per tutti. C'è il sommario della giustizia sommaria, ma c'è anche una strategia, c'è anche un tentativo di controllare e tenere in una trappola tutto il meccanismo, tutto il dinamismo della società italiana. Questo bisogna dirlo. Non è necessario poi andarsi a precipitare nelle discussioni tra forcaioli o garantisti. No, ma non è questa discussione. Qui c'è un dato concreto, ci sono delle realtà, a maggior ragione voglio spiegare quelle del sud, dove per chi lavora c'è sempre un'alternativa: o pagare il pizzo alla mafia o andarsene in galera. C'è questa unica possibilità. Ecco, 800 24 0024 il numero verde, 349 238 66 su questo tema complesso, al cuore di questa situazione, di queste questioni. Però ci sono le modalità di finanziamento della politica in un sistema democratico, perché si fa finta di non tener conto di questo. Oggi tutti dicono: non deve essere lo Stato, ma i cittadini a finanziare la politica. E le ruberie che ci sono state, forti, troppe, come dire, in qualche modo sostengono questa ipotesi. Ma è veramente un passo avanti questo? Ma è una posizione molto, molto difficile. Allora, io, diciamo, idealmente sarei per finanziamento privato. Attraverso donazioni private. Però poi... siamo realisti, noi non siamo l'America, non siamo manco l'Inghilterra, cioè, quindi in realtà noi dovremmo avere un sistema misto dove c'è un po' di pubblico e c'è la possibilità concreta per il privato, in maniera trasparente, di far emergere anche quelli che sono i suoi interessi. Parliamoci chiaro, cioè una democrazia è emersione di interessi che poi si contrappongono virtuosamente. E quindi insomma sì al privato, però... Sì. Purché i parlamentari non diventino, in quanto finanziati solo dai privati, dei lobbisti. Certo, sì, perché no, chi mette i soldi diventa padrone. Quindi il rischio di diventare lobbisti, è una scelta. È molto meglio il finanziamento pubblico. Non c'è... Va bene, questa è la tua opinione. Anch'io penso che ben controllato garantisce di più, diciamo, la libertà. Soprattutto la libertà dei di fare politica, che bisogna difendere. In ogni caso, però, un problema drammatico che è legato a quello che stiamo dicendo, al tema della giustizia, e l'Europa ce lo ricorda in tutti i momenti, è il tema delle carceri dure, perché disumane, anche perché sovraffollate, e che in nessun modo riescono più a recuperare alla società civile, oppure riescono in parte minore, piccola, e lo sentiremo, chi potrebbe invece farlo. Questi sono i numeri. In Italia i detenuti sono 60.197 per 205 istituti. Ci sono 4.000 carcerati in meno rispetto a 6 mesi fa. Un terzo sono stranieri, prevalentemente tunisini, marocchini, albanesi e rumeni. Il 38% degli oltre 60.000 detenuti è in attesa del primo grado di giudizio o della condanna definitiva. Ma i dati che fanno riflettere sono le 13.800 persone condannate e le 8.600 persone in attesa di giudizio. Quindi un totale di 22.400 detenuti rispondono di un reato collegato alla legge Fini-Giovanardi dichiarata incostituzionale. Ecco, dell'abolizione, degli effetti dell'abolizione della Fini-Giovanardi ne parleremo subito dopo la pubblicità con Nicola Boscoletto, che è presidente del consorzio sociale Giotto e che gestisce e organizza laboratori per i detenuti nel carcere I Due Palazzi di Padova, dopo la pubblicità. Mix 24. Dunque, Nicola Boscoletto, presidente del consorzio sociale Giotto, che gestisce e organizza laboratori per i detenuti, il carcere I Due Palazzi di Padova. Come abbiamo detto prima, lei si occupa di recuperare i detenuti. Ecco, l'abolizione della Fini-Giovanardi, che cosa cambia? Cambia tutto in carcere? Allora, innanzitutto, caro Giovanni, buona giornata. Ma io non ho i dati per poter nel dettaglio dire che cosa cambierà. Sicuramente cambierà qualcosa, ci sarà una diminuzione che sarà progressiva, soprattutto. Però abbiamo sentito i numeri, sono tanti quelli, sì, che dovrebbero, come dire, in qualche modo usufruirne. Però dovranno tutti quanti passare attraverso una ridefinizione della posizione giuridica, il magistrato dovrà decidere. Vabbè, allora quindi parliamo di quello che fate voi, questo lo, sì, lo vedremo nel tempo. Intanto, sì, voi che cosa fate? Cioè, quali sono le cose da fare per rendere in ogni caso possibile il recupero di chi sta in carcere, in modo che quando esce sia, come dire, una persona che può affrontare la società? Noi facciamo quello che è detta la Costituzione e le leggi, cioè diamo un lavoro che lo Stato ha come obbligo per recuperare queste persone. Però voglio sfatare subito un luogo comune che la gente normalmente dice: ma come, in un momento di crisi in cui le nostre famiglie, i nostri figli non hanno un lavoro e fanno fatica ad arrivare a fine mese, diamo un lavoro a degli assassini e dei delinquenti? Bisogna rispondere subito a questa domanda, perché i primi a guadagnarci sono i cittadini ed è la nostra società. Perché? Perché devono sapere che ogni milione di euro investito nella rieducazione attraverso il lavoro se ne risparmiano 9. Quindi, perché se ne risparmiano 9? Perché? Perché per effetto dei dati che oggi su 60.000 detenuti che lavorano con un lavoro vero all'interno delle carceri sono 880 detenuti. Ecco, dottor Boscoletto, però io le dico una cosa che è un sentimento abbastanza diffuso che arriva adesso in un SMS. Che, sì, cosa ce ne frega di, parole testuali, di 600.000 detenuti di fronte a 3 milioni e mezzo di disoccupati? Allora, è importantissimo. È un sentimento diffuso questo. Certo, ma bisogna spiegare che questi 60.000 detenuti che sono nel carcere vengono educati ad essere più delinquenti di prima e quando escono commettono reati peggiori. E a che costi? Ai costi esorbitanti, perché si spendono miliardi di euro per creare delinquenti. Ora, cosa succede quando si applicano le normative attraverso il lavoro? Dicevo, ogni milione di euro investito se ne risparmiano 9. E voi in concreto che fate? In concreto diamo da lavorare attraverso attività artigianale, recuperando anche attività che andavano perse o che venivano terzializzate all'estero. Quindi diamo un lavoro attraverso questo anche persone normodotate che le seguono nelle varie specificità, ma ripeto, noi vogliamo dare agli esodati, lo Stato deve dare agli esodati, ai disoccupati, alla sanità, al sociale, agli anziani, alle scuole, non 1 milione di euro, ma 8, 80, 800 milioni e di nel euro. Nella vostra esperienza diretta nel carcere di Due Palazzi di Padova? Ma nell'esperienza di Padova, come quelle simili a Padova sparse in Italia, la recidiva dal 70 al 90% scende sotto il 10% fino a punte dell'1%. Cioè si impara un lavoro, si esce e la recidiva si riduce dal 70-80% all'1%, ho capito bene? Assolutamente sì, e quindi noi abbiamo un detenuto che a bocce ferme ci costa 250 euro al giorno, che quando esce diventa un delinquente peggiore, scippa la vecchietta cade, si rompe il femore, spese sanitarie, la polizia li arresta, spese di sicurezza, il giudice, nuovo fascicolo, nuovo processo, lo manda in carcere e cominciano di nuovo i costi. Quindi abbiamo creato un sistema che ci costa una valanga di soldi, che non pagano i detenuti quando noi diciamo mettiamoli in carcere, buttiamo via le chiavi, che paghino, non pagano loro, paghiamo noi per farci del male. Cioè bisogna prendere coscienza di questo fatto, cioè lasciamo stare per un attimo, questa non è un'azione buonista, pietista, anche Sant'Agostino diceva che chi sbaglia deve pagare. Va bene. Ma deve pagare non vuol dire che deve pagare anche la società in termini di sicurezza. Vabbè, e di abbiamo costi. Capito qual è la sua posizione e il tipo di lavoro che voi fate. Grazie, Grazie a voi, dottor Boscoletta. Intanto sul tema però del finanziamento ancora dei partiti che interessa la gente abbiamo Michelangelo da Milano, buongiorno. Buongiorno. Intanto complimenti per la vostra trasmissione. Grazie. Io mi occupo di raccolta fondi per le organizzazioni non profit, in particolare sono consigliere dell'Associazione Italiana Fundraiser. Ma quello che volevo dire è che innanzitutto trovo che fare raccolta fondi... No, ma la domanda, qual è la domanda? La mia domanda è che fare lobby partendo dal basso non è una cosa così sbagliata. Cioè io credo che... E cioè quindi riferito al finanziamento dei partiti, lei qual è la sua ipotesi? La mia ipotesi è questa, fare raccolta fondi dal basso, quindi attraverso un consenso popolare, e attraverso il consenso popolare creare delle lobby che possono portare a istanze civili e miglioramento della società. Non è così sbagliata, perché in America ci sono delle lobby fortissimi ambientali che hanno fatto del bene all'America o agli Stati Uniti. Quindi è vabbè, la lobby quindi dall'alto, lobby dal basso, lobby dall'alto, distingue fra genere di lobby. Va bene, grazie Michelangelo. 800 24 0024 349, il numero verde naturalmente, l'SMS 349 238 6666. Passa tempo, tic-tac, il vola via, giorni e notti, tic-tac, che così sia. Passa tempo, passa in fretta con la noia e l'allegria. Sono molto, molto stanco, più non penso, più non dormo, faccio solo tic-tac, notte e giorno, giorno e notte, tic-tac, notte e giorno. Questa perché, Pietrangelo? Perché nell'epoca del lavoro totale, ma senza reddito, e dà il senso della giornata di tanti. Poi mi immagino anche chi ci ascolta, magari è fermo al semaforo e sente dentro di sé questo orologio, che poi oltretutto è anche sparito dall'orizzonte sociale l'orologio. Adesso ci sono ovviamente la lettura attraverso gli smartphone, attraverso i telefonini. E il tempo, poi hai notato, Mario, nessuno più sbaglia l'ora, tutto preciso, tutto preciso. Tutti puntuali, quindi una gabbia ancora più spaventosa, sì, sì. Mi ricordo una poesia di Baudelaire, l'orologio. Sì, qualcosa del genere. Ricordo grande cultura. Vabbè, ok, il tempo l'abbiamo capito. E la quota rosa col tempo come sta messa? Christine, in quanto quota rosa è evidente che oggi mi abbia colpito quello che ha detto Christine, appunto, Lagarde. Niente po' di meno che il direttore del Fondo Monetario Internazionale. Infatti lei, ragazzi, ha detto che l'Italia è uno dei paesi che, purtroppo, aggiungo io, incoraggia meno l'ingresso delle donne nel mercato del lavoro. E avverte i maschietti al potere, dice: se cambiate rotta si potrebbero anche produrre dei benefici, per esempio un reddito aggiuntivo. Insomma, io continuo a sperare nella svolta buona. Ah, renziana pura proprio, la nostra quota rosa. Senza freni. Senza freni. E allora sentiamo che cosa bolle in pentola nella pentola di Mario. Oh, buongiorno a tutti. Allora, bolle. Finalmente, bolle. Bolle. Dopo anni di oppressione siamo liberi. Il mondo si è liberato. Niente più paure, violenze, ingiustizie, barriere, muri. Sono fiero di poter affermare che ci siamo veramente liberati di tutto. L'unica cosa che non sono riuscito a fare è liberarmi della libertà. Allora, il grande Gaber, ovviamente, l'avrete riconosciuto, lui non è riuscito a liberarsi della libertà e Renzi non si libererà degli impegni di governo che sono pressanti e pesanti. Arriva il DEF martedì. Che cosa è il DEF? È il documento di economia e finanza. Fu introdotto nel 2011, scusate se sono un po' pedagogico, ma serve per capire, secondo me, ed è diviso in tre parti. Ed è lo strumento che racconta cosa farà il governo, sì, adesso è per il prossimo periodo, diciamo. E una prima parte è il programma di stabilità, cioè come l'Italia rispetta i suoi impegni all'interno, tra le regioni, eccetera, e anche in Europa. Una seconda parte sono le analisi e le tendenze della finanza pubblica, cioè il destino che attende il bilancio dello Stato, sostanzialmente le nostre entrate e uscite, come in una casa, non cambia granché. E poi c'è una cosa che si chiama PNR, che è un acronimo che vuol dire Programma Nazionale di Riforme. Lì ci dovrebbero essere elementi di novità. Lì ci saranno gli 80 euro? Gli 80 euro arriveranno con un decreto il 15 e 16, quindi dovrebbe esserci anche questo. Il 15 e il 16 aprile, Pietrangelo? Gli 80 euro. No, volevo sapere da voi che in tema di demoplutocrazia siete informati. Ma questi 80 euro che Renzi dovrebbe dare non somigliano pericolosamente al famoso paio di scarpe di Achille Lauro? 80 anche perché oggi credo, e 100 domani. Anche perché credo che il costo delle scarpe sia sulle 80 euro, giusto? Meno, dai, non esagerare. Ci sono scarpe che costano anche meno, ma insomma, vabbè. Salamini! Il 10 aprile, e allora c'è da dare dei consigli al Cavaliere per fare della sua condizione di vittima una vittima di gran successo. Si saprà decide. Se sarà affidato, prigioniero, insomma, la sorte del leader di Forza Italia. Ne abbiamo parlato. E facciamo un bellissimo testacoda, un cortocircuito, perché... Insomma, volevo dirvi anche di un'idea di Giovanni che ha riferito al Foglio, che si può leggere in un pezzo oggi di Salvatore Merlo sul Foglio. Ah, lui proprio. Ha un'idea, dopodiché io riferirò l'idea di un altro, prego. Ma io non mi ricordo che idea. Come, bravo, hai dato un'idea. Non rivelare niente che non sia stato già pubblicato. Va letto, per saperlo va letto. Allora, immaginando il Cavaliere una web series, una web series da che diventi virale, dal titolo Le mie prigioni, potrebbe essere una cosa, il jail show. Bene, questa è l'idea di Giovanni Minoli, mentre invece Paolo Liguori ne ha suggerita un'altra. Paolino. Se gli daranno i servizi sociali, potrebbe farsi affidare al Foglio o al giornale, lì diventerebbero i pezzi oggetti di studio, di culto. E allora si immagina questa scena dove il Cavaliere scrive sulle colonne del Foglio, ma forse non firma, e allora tutta l'Italia sta lì a leggere rigo per rigo, ad analizzare articolo per articolo, cercando le tracce. A un certo punto c'è un articolo dal titolo Le più belle modelle del mondo, e allora Gad Lerner e Zagelbeschi finalmente esultanti direbbero: eccolo l'articolo di Berlusconi. Vabbè, insomma, risolve tutto. Io me lo immagino in riunione di redazione: cari ragazzi, c'è una novità, abbiamo deciso che ci sarà un solo articolo. Andiamo avanti con le bolle. You can do magic. You can have anything. Allora, sono gli America, un bellissimo pezzo questo di qualche anno fa, per dire che l'America darà i dati sull'occupazione oggi, e sulla disoccupazione. Oggi, sì, oggi, oggi, secondo gli analisti, saranno buoni, vediamo, dovrebbero aver raggiunto 200.000 posti di lavoro in marzo. Il tasso di disoccupazione, secondo le aspettative, scenderà al minimo dal 2008, 6.6%. Da noi, io lo ricordo, è il 13, quindi c'è qualcosa da fare, secondo me. Mi sembra che ce ne sia da fare. Ce n'è da fare tanto. Pensate che cosa hanno sopportato gli Stati Uniti nel 2008 con la crisi e come sono riusciti a recuperare. Una cosa che dovrebbe far riflettere molto la politica europea, secondo me. Mix 24. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS, il canzoniere. E attendiamo, attendiamo, anche i martiri e i santi attendono. Attendono coloro che saranno martiri e santi. Il destino attende nelle mani di Dio, mentre dà forma alle cose che sono ancora informi. Tutto questo io l'ho visto come riflesso in un raggio di sole. Il destino attende nelle mani di Dio. Mamma mia. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Sara, cosa volevi dire? No, una domanda di un ascoltatore, ma che raccolgo volentieri e ve la giro. La legge Fini-Giovanardi abolita, la legge Bossi-Fini abolita. Ma allora, a cosa è servito Fini in tutti questi anni? Questa è una domanda per Pietrangelo. Maestro. Vai, Pietrangelo. Butta fuego. Vai, maestro. È la controprova della giusta intuizione di Martin Heidegger quando, dopo aver svelato l'essere, svelò il nulla. Essere è tempo. Bolla! Facciamo parlare un collega. Questo è Orson Welles durante la sua celebre diretta, no? La guerra, l'invasione, sì, dei marziani, certo. Che era un radiodramma, come possiamo definirlo? Sì. No, un radiodramma. Era un radiodramma che però era talmente dramma che sembrava vero. Ha bloccato l'America. Esatto, bloccò l'America. Per dire che cosa? Che c'è una bellissima scoperta, adesso poi magari diamo in dettagli nei prossimi giorni, domani. Sì. Però, insomma, in una luna di Saturno c'è un oceano. E naturalmente questo cambia moltissimo le cose sulla conoscenza del nostro sistema solare. E la scoperta parla italiano. Perché? Perché ho visto che ci sono tre ricercatori, Università della Sapienza, Università di Bologna, devo scaricare il documento ancora e leggerlo, però insomma... E parla italiano, abbiamo andremo contribuito. Andremo al mare su Saturno, questo ci vuoi dire, come Orson Welles? Ma sai, io non ci vado mai, quindi la cosa, andare su Saturno per andare al mare mi sembra un po' eccessivo. Senti, sentiamoci quest'altro salamino. Su Saturno ci va con una donna. Intanto aspettiamoci un altro salamino. Salamino da Bello e Contrappello. Oh. Riforma del Senato, si scatenano i dotti, i medici e i sapienti, i sapientissimi, dottissimi, oh, i medicissimi che, guidati da Zaghe Belschi, vanno a custodire la Costituzione. Ma, e qui a questo punto chiederei di cambiare musica. All'appello, il contrappello. Ben 51 liberali si mobilitano contro Zaghe Belschi, sono capeggiati da Dino Cofrancesco. Quindi lì il pensiero liberale dice all'altro liberale di non essere illiberale nel proporre qualcosa che di liberale scatena poi un sentimento antiliberale, perché l'illiberale liberalizza tutto ciò che è libertà. Insomma, io darei un consiglio: evitate di firmare appelli, perché non si sa mai poi si ritrova un commissario assassinato. Meno male che io sono comunista da un po' di giorni, quindi sono bene. A posto. No, sto bravo. Bene, non di sinistra, comunista. Di sinistra. Allora, comunista. L'ultima bolla. E vabbè, dai, riguarda il professore che aspetta. un grande, un gigante, Giovanni, tutti in piedi. Letterman va in pensione, cambia molto questo lo scenario del lo show serale della CBS, non si sa ancora con chi lo sostituiranno. Io lo so, ma sì. Ci va Bruno Vespa. Ah. Sì, con la stessa verve di Letterman, proprio uguali, direi. Hanno lo stesso proprio e quindi linguaggio. Ci abbandona David Letterman. Sì, e tieni presente che la CBS, storia della televisione, sì, che finisce. Sì. Tieni presente che la CBS non catturava più il pubblico dei giovani. Questo, sì, è un problema che riguarda, certo, molto anche la Rai, come tu ben sai. È noto. Che è noto, hanno un'età media, sì, di spettatori molto alta. E, mentre Jimmy Fallon, che è il conduttore del programma rivale del Tonight Show, va forte Tre Ragazzi. E va bene, allora sentiamo il professor Simonelli. Professore, buonasera. Buongiorno, anzi, buongiorno, dov'era ieri sera? Buonasera, era quello. Dov'era ieri sera il canone? Ieri sera è successa una cosa che mi fa agganciare a quello che dicevate. Letterman va in pensione, ma ha un degno sostituto. Voi non so se avete visto ieri sera cos'è successo. No. Il sostituto è lui, Matteo Renzi. Matteo Renzi ieri si è improvvisato mica tanto conduttore. Avete ancora di Brunetta? No, no, e non c'è più. Perché sennò si infuria, perché oltre ha già messo, come dice lui, la testa, in realtà, e la faccia da molte parti. Ieri l'ha messa a 8:30. Ha cominciato a condurre, ha chiamato la pubblicità, ha bacchettato Santoro che incombeva troppo e quindi faceva chiudere il programma, secondo lui, un po' troppo presto, e Lilli Gruber, che è intelligente, invece che risentirsi come avrebbero fatto altri conduttori, ha capito che lì c'era lo spettacolo. È grande spettacolo, allora, non solo è allora il rullo compressore, brava Lilli, diciamo, ma è il nuovo conduttore. Questo non lo sapevate e non lo sa neanche Letterman, che ha un degno sostituto. Vabbè, però il sarà canone detto era anche da un'altra parte. Se magari facciamo partire la sigla, ve lo spiego. Professore, oramai dovrebbe venire qui in studio, sì, con noi. Io lo adoro, prima. Dichiaro il mio amore. Sì. Professore, aspetti, professore, un attimo, non sovrapponiamoci. Adesso ho capito chi farà la conduzione di 8:30 estate. Ha dato una notizia, sarà Renzi. Allora mettiamola così, se cade il governo e va tutto a rotoli, Renzi non fa più il sindaco, non fa più il segretario, non fa più il presidente del consiglio, ma conduce 8:30 estate. No, forse e l'altro, non è male. E l'altro canone dov'era ieri sera? L'altro canone era su Carosello, era su Rai 1, perché questo Carosello Reloaded, insomma, parlare di Carosello è come una parola sacra in Italia, una naturale parola sacra per il servizio pubblico, una parola sacra per il canone, perché tutti sanno qual è stata la storia intricatissima e complicatissima del rapporto tra pubblicità e canone negli anni 50 e 60 e un pezzo di e adesso 70. Vedremo come andrà a finire questa storia. Intanto, questo, professore, scusi, ci abbiamo Giovanni da Roma, un ragazzo. Pronto, Giovanni? Sì, buongiorno. Buongiorno, e per il canzoniere ci dica. Sì, è Thomas Elliot, Assassino nella cattedrale. Giusto. Che fa? Cosa fa? Giovanni, lei cosa fa? Sì. Studia, che fa? Tecnico informatico per Intesa San Paolo. Tecnico informatico? Ah, fantastico. Sì, esatto. Ah, bene, bene. Allora, auguri e complimenti, professore. Allora, scusi, l'ho interrotto. Tutte le volte che io so il cantoniere, c'è qualcuno, io faccio il signore, non lo dico, e qualcuno mi anticipa. Vabbè, dobbiamo condividere con i nostri ascoltatori. No, giusto, giusto, giusto. No, allora, questo Carosello con dentro la sitcom, con tre pezzi di sitcom e qualche spot, insomma, è qualcosa di carino, di nuovo. Forse bisognerebbe rafforzare un po' le pubblicità. Senta, la grande trovata di Carosello era quella di fare uno spettacolino, certo, e poi agganciare, ma non immotivatamente, il codino in cui si promuoveva un prodotto. Senta, questo professore, manca, bisognerebbe studiarlo bene, ma voi poi lì martedì avete Doglio, che è la massima autorità in materia, e ci faremo spiegare. Consultarla. Senta, professore, ma che cosa consiglia per il weekend? Due cose almeno. Allora, questa sera Le mani dentro la città, perché Canale 5, Mediaset, Pao 2, insomma, una fiction che è un po' alla maniera del Padrino, ma si sa, le fiction di mafia hanno tutte un debito nei confronti del Padrino, però ha il pregio di aver spostato e poi abbiamo 20 secondi. Bertolino con la satira. Ah, ecco, vedremo domenica quello. Sera su Rai 3, vediamo se Just non ha funzionato, vediamo. D'accordo. Se funziona. Grazie professore, buon weekend. Oggi Marina Milone racconta un uomo straordinario, Alexander Langer, un uomo che ha speso la vita pensando, immaginando un mondo migliore, una puntata firmata Cristina Fratelloni che ripercorre le tappe della vita, del pensiero di questo, di questa grande personalità del secolo scorso. Marina Milone intervista Gianni Mattioli, lo storico leader dei Verdi che lo ha conosciuto, e parla di lui.